invadendo i palcoscenici. Giusta censura? Ne parliamo tra poco con Vauro. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti che, se volete, potete commentare al 349-238-6666 oppure scrivendomi su Twitter Simone Spezia o con l'hashtag Effetto Giorno oppure sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Iniziamo dunque dal pasticcio sulla scuola. Per i professori nessuna trattenuta nella busta paga di gennaio. Il governo fa infatti marcia indietro sulla restituzione degli scatti di anzianità percepiti nel 2013 che erano stati cancellati, ripristinati e poi di nuovo cancellati in modo retroattivo dopo Natale. Un pasticcio che aveva fatto insorgere i sindacati pronti allo sciopero, ma anche le stesse forze politiche che sostengono la maggioranza. Il dietrofront è stato deciso stamattina in una riunione a Palazzo Chigi. Gli insegnanti non dovranno restituire i 150 euro percepiti nel 2013, ha fatto sapere il premier Letta al termine del vertice. Eviteremo che si verifichi il prelievo, aveva assicurato poco prima il vice premier Alfano. Sono soddisfatta, commenta il ministro dell'istruzione Carrozza, che già ieri si era schierata a fianco dei docenti e aveva scritto al titolare dell'economia Saccomanni chiedendo di sospendere la procedura di recupero degli scatti. Ad esprimere soddisfazione è anche il segretario del PD Renzi, che sempre ieri aveva chiesto all'esecutivo di rimediare a quella che aveva definito una figuraccia. Bene il governo, sugli insegnanti cambia verso, ora il lavoro, i dati Istat sono devastanti, ha twittato stamattina il sindaco di Firenze. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sentiamoli questi dati Istat. Sono ancora una volta i giovani a soffrire maggiormente gli effetti della crisi. Secondo l'Istat, infatti, il tasso di disoccupazione per la fascia di età tra i 15 e i 24 anni cresce ancora. A novembre dell'anno che si è appena chiuso si tocca quota 41,6%, il livello più alto dal 77, data di inizio delle serie storiche. E che si sia nel momento più nero della congiuntura economica lo dimostra il dato di novembre rispetto allo stesso periodo del 2012, con un incremento della disoccupazione di 4 punti percentuali, 23.000 giovani disoccupati in più in un anno per un totale che sfiora le 700.000 unità. A novembre 2013 risulta in crescita anche il dato generale della disoccupazione 12,7% rispetto al 12,5% di ottobre. Risultano più penalizzati gli uomini 17,2% che le donne più 6,1%. In sei anni dall'inizio della crisi gli occupati nel nostro paese, segnala sempre l'Istat, nei suoi dati previsionali sono diminuiti di 1,1 milioni di unità, mentre i disoccupati sono più che raddoppiati, passando da 1,5 milioni a 3,2 milioni. 154.000. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Fin qui i dati sulla disoccupazione e quello che è successo sulla scuola. Però iniziamo l'anno, iniziamo questo 2014 esattamente come l'abbiamo finito, continuando a parlare di tasse sulla casa. Abbiamo in studio con noi Gianni Trovati. Buongiorno Gianni. Buongiorno a voi. E bentornato. Ancora una volta non ci ho capito niente. Ci spieghi che cosa sta succedendo? Non è semplice, sta succedendo che il governo sta cercando in qualche modo le risorse per introdurre le detrazioni alla TASI per fare in modo che chi non pagava l'IMU anche nel 2012 perché aveva e ha una casa di valore medio-basso e sono milioni e milioni di contribuenti non debba pagare la TASI perché la TASI non ha le detrazioni. Come si trovano però i soldi per le detrazioni? Aumentando i tetti generali alle aliquote. Questo naturalmente crea un certo imbarazzo politico, al punto che il testo che dovrebbe introdurre questi correttivi ritarda e allunga un po' i tempi di discussione, che già non sono stati brevi perché da più di due mesi ci occupiamo di questa questione, per cui non ci sarà il correttivo al decreto IMU, quello in discussione adesso al Parlamento, ma più probabilmente o un decreto sulla casa più generale, che è quello che sta predisponendo anche il ministro Lupi con novità sulla cedolare secca, eccetera, oppure un emendamento a un decreto successivo. Al di là dei tecnicismi, comunque si cercano i soldi per introdurre le detrazioni per le fasce più basse, si prova a trovare questi soldi aumentando le aliquote, il risultato però è che le aliquote aumenteranno, le detrazioni saranno nella disponibilità saranno basate sulla scelta e sulle possibilità di bilancio dei singoli comuni. Quindi un'aliquota che si avvicina a quella dell'IMU, perché l'IMU, ci ricordiamo, era il 4 per 1000, qui si sta parlando di 3,5, ci siamo quasi, ma l'IMU aveva una detrazione fissa da 200 euro prevista per tutti dalla legge statale più 50 euro per ogni figlio. La TASI non ha detrazioni fisse, è nella scelta dei comuni introdurre le detrazioni e individuare la platea, per esempio le famiglie numerose, quelle con basso ISEE, eccetera, eccetera, per cui chi rimarrà fuori da questa platea inevitabilmente ridotta dalle risorse disponibili pagherà molto probabilmente più. Allora Gianni, proprio per uscire dai tecnicismi e molto seccamente, ci aspetta un'altra mazzata nel 2014? Per molti contribuenti sì, non per chi ha però una casa di valore molto alto, un villino, un bel appartamento ampio in centro eccetera, perché per questa tipologia di contribuenti la TASI sarà sempre inferiore e anche di molto rispetto all'IMU. Chi è ricco paga meno. Grazie a Gianni Trovati che ci ha chiarito efficacemente con quest'ultima battuta che cosa è successo. Noi veniamo alla cronaca e veniamo al triplice omicidio di Caselle Torinese, perché è stato arrestato e ha confessato il colpevole. Ci colleghiamo con Torino e con Filomena Greco. Filomena, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Sì, a questo punto sono abbastanza chiari i contorni in cui è maturato il triplice omicidio di Caselle. Una terribile vicenda, come l'ha definita il procuratore di Torino, Ausiello. Ma sentiamo questo audio. Il signor Palmieri Giorgio, pregiudicato per reati contro il patrimonio nel non recente passato, ha spontaneamente confessato di essere l'autore del triplice omicidio motivato da ragioni economiche, nel senso che, conoscente della famiglia, aveva deciso di andare a chiedere, a prendere dei soldi, di rubare dei soldi da quella famiglia e aveva, come dire, utilizzando la scusa di non essere in grado di restituire un precedente prestito, fatto accesso alla villetta in Caselle per dare con la scusa di spiegare il perché non riusciva a dare conto di questa restituzione, ma con l'intento di prelevare dei denaro. Sì, l'uomo è stato dunque fermato la notte appena passata, questa mattina ha confessato, ha raccontato di essere andato a trovare la famiglia a Lione con una scusa, come avete sentito, giustificarsi per un prestito che non era riuscito a restituire, è stato fatto entrare, con i coniugi a Lione ha preso un caffè, poi è arrivato un litigio, una discussione, insomma Palmieri cercava altro denaro, ha colpito prima Claudio a Lione, poi sua moglie, sceso di sotto ha incrociato la nonna, una donna di oltre 90 anni che lo ha riconosciuto, quindi ha dovuto colpire anche lei. Le indagini sono ancora in corso, l'accusa è di omicidio volontario aggravato da futili abietti motivi, ma in realtà serve capire se l'aggressione fosse premeditata e soprattutto bisogna chiarire l'eventuale ruolo della convivente dell'uomo, la collaboratrice domestica in casa a Lione per oltre 5 anni. Determinanti, hanno raccontato gli inquirenti per arrivare a Palmieri, sarebbero state proprio le intercettazioni telefoniche. Grazie a Filomena Greco per questi aggiornamenti e noi restiamo sulla cronaca per parlare di 'Ndrangheta, perché c'è stata un'importante operazione che ha portato all'identificazione di una cellula, di, per così dire, della cosca di San Luca a Roma. Monica Ceravolo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. C'è, come avete anticipato, la prova che la 'Ndrangheta a Roma esiste ed è attiva. I risvolti sull'omicidio di Vincenzo Femì, assassinato poco meno di un anno fa nella periferia della capitale, svelano infatti gli interessi della mafia calabrese in città. La notizia di oggi è che sono state arrestate 3 persone, Antonio e Francesco Pizzata, catturati a San Luca in Calabria, e Massimiliano Sestito, che si trovava già in carcere a Viterbo. Hanno ucciso Femì per un affare di droga, un enorme affare, 160 kg di cocaina pura che la vittima aveva intenzione di mettere sul mercato capitolino a prezzi stracciati per conquistare nuovi spazi, un tentativo, quello di affrancarsi dalle famiglie calabresi, che è stato stroncato dall'omicidio. Alle indagini della squadra mobile ha collaborato uno dei killer del delitto, Gianni Cretarola, che arrestato la scorsa estate ha rivelato il movente dell'omicidio. Nella sua casa romana, durante una perquisizione, è stato trovato il testo criptato della formula di affiliazione alla mafia calabrese ed è stato rinvenuto anche il codice codice per tradurre quelle frasi apparentemente insignificanti. Questo nuovo pentito adesso potrebbe fornire decisive informazioni sulla presenza dell'Ndrangheta nella capitale, a cominciare dagli interessi economici e dagli equilibri che girano attorno agli enormi guadagni legati al traffico di droga. Ed è tutto. Grazie a Monica Ceravolo. Abbiamo aperto parlando della situazione economica italiana e abbiamo parlato anche dei dati sulla disoccupazione. Oggi sono arrivati anche i dati sulla disoccupazione da Eurostat. In Europa è al 12,1%, sostanzialmente ferma. E oggi la Grecia prende in mano il semestre di presidenza europeo, si trova ad Atene dove si sta celebrando questo momento e si sta facendo il punto anche naturalmente sulla situazione della Grecia, l'inviato del Sole 24 Ore, Beda Romano. Beda, buongiorno. Buongiorno. Che cosa sta emergendo in queste ore? L'impressione che sta emergendo è che la Grecia voglia utilizzare questa presidenza semestrale dell'Unione per portare avanti un obiettivo, che è quello di un ulteriore alleggerimento del debito pubblico greco. Usando lo strumento di un accordo tra i ministri finanziari raggiunto nel 2012. Allora si è detto, i ministri dell'Eurogruppo avevano accettato l'idea che una volta raggiunto un bilancio primario inattivo, la Grecia avrebbe potuto chiedere in un modo o nell'altro un nuovo alleggerimento del debito. Oggi in una conferenza stampa sia il ministro degli esteri Venizelos che il ministro delle finanze Sturnaras sono tornati all'attacco, perché la Grecia dovrebbe essere riuscita nel 2013 a rimettere ordine nei suoi conti pubblici e ad avere proprio un attivo di bilancio primario. Se così fosse, l'obiettivo della Grecia è quello di portare avanti l'idea di un alleggerimento del debito pubblico, che è sempre molto elevato, intorno al 150% del prodotto interno lordo. Allora, sia Venizelos che Sturnaras hanno escluso l'idea di un condono, usando l'espressione inglese di haircut. Vogliono invece in qualche modo alleggerire il debito attraverso, per esempio, una riduzione dei tassi di interesse che pagano sui prestiti ricevuti dall'Europa, per esempio. Sarà un dibattito interessante, evidentemente, perché da un lato il governo Samaras vuole tentare di ottenere questo obiettivo nei prossimi mesi, prima del voto europeo, per tentare così di scalfire la minaccia dei partiti estremisti e per dare una risposta positiva che possa aiutare i partiti invece più tradizionali. Al tempo stesso, ai partner europei non conviene porre questo problema sul tavolo prima del voto, perché naturalmente in alcuni paesi come la Germania, come la Finlandia, come i Paesi Bassi, l'idea di un alleggerimento del debito greco potrebbe essere un argomento controverso che potrebbe mettere in pericolo proprio i partiti più tradizionali prima del voto. Quindi c'è questo contrasto che andrà sanato e che probabilmente vedremo nelle prossime settimane. Grazie a Beda Romano, inviato del Sole 24 Ore ad Atene. Noi restiamo nel Mediterraneo, ma ci spostiamo in Turchia, dove oggi il governo ha silurato i prefetti, capi della polizia di 16 province, dopo aver silurato ieri 350 poliziotti. Sentiamo perché. La Turchia è sempre più nella bufera. In una nuova puntata del braccio di ferro che vede contrapposti la magistratura da un lato e il governo Erdogan dall'altro, ad Ankara sono stati rimossi 350 membri delle forze dell'ordine, tra cui 80 agenti di alto grado, sospettati di non essere sufficientemente fedeli al governo. Sullo sfondo della maxi inchiesta per corruzione che sta destabilizzando il paese e ha già costretto alle dimissioni ben 3 ministri, fino a sfiorare il figlio dello stesso premier, c'è la lotta tra il predicatore islamico Fethullah Gülen e Erdogan, un tempo alleati contro i laici e i militari e oggi nemici acerrimi. Intanto l'economia sul Bosforo ne risente, la lira ai minimi su dollaro e euro, mentre i turchi in 6 mesi hanno venduto lire per 20 miliardi di dollari per scegliere depositi in valuta estera e cercare così di salvare i propri risparmi. In vista di nuove difficoltà,

dovute anche a chi vuol far cassa poi o a chi ha fatto cassa sulla scuola, nel nostro caso 1 miliardo rispetto alla spesa pubblica, 8 miliardi sono i soldi che sono confluiti dalla scuola nei risparmi vari che sono stati fatti sulle spending review. Lei non si può, diciamo, fare questi risparmi e pensare che poi la scuola migliori e poi non si paghino le conseguenze di questi risparmi, anche perché non vengono da una vera riforma della scuola, ma vengono dalla volontà di fare cassa. Quindi lui si trova in una situazione molto difficile, c'è già il tema della casa da affrontare, non serve a nulla chiedere le dimissioni di un ministro se poi non si presenta un programma chiaro di come si vogliono risolvere le difficoltà, perché se viene qualcun altro si ritrova nella stessa situazione. Ma certo, il problema sono le riforme e fare aprire un dibattito serio, perché poi tutti vogliono le riforme e la meritocrazia, purché non sia a casa propria. Perché poi il punto è quello, poi i concorsi trasparenti, le decisioni trasparenti, però poi riguardano gli altri, quando le vai a applicare tutti si lamentano. Quindi il tema è un partito, un gruppo o chi si vuole prendere la responsabilità di dire facciamo tutti un sacrificio, ma dobbiamo rinunciare a qualche privilegio e fare queste riforme. Ministro, un'ultima domanda che ci arriva in realtà da un ascoltatore che via SMS dice: ci sarà qualche dirigente che paga per questo errore oppure no? Questo sicuramente noi faremo un'analisi interna e questo penso che non si debba risolvere alla radio, ma le posso garantire che sicuramente rivedremo il processo decisionale e cerchiamo di capire dov'è che la comunicazione è mancata e saltata o non è stato compreso che prendere una decisione su 80.000 persone da un momento all'altro tra Natale e Capodanno era una cosa che doveva riguardare anche un'informazione ai ministri prima di farlo. Quindi diciamo, questo sicuramente noi lo faremo. Qualcuno pagherà quindi? Questo è brutto da dire, non è qualcuno pagherà. Si farà un'analisi di chi ha sbagliato, ha commesso degli errori e vedremo. Non è questione di dire qualcuno pagherà. Il ministro, una persona responsabile qui, si fa presto a fare gli slogan, chi paga? Non è questione di pagare, è questione di organizzare le cose perché poi questo non avvenga più. Questo è il tema, ecco, e quindi migliorare i processi della pubblica amministrazione. Questo è il mio compito come ministro. Grazie a Maria Chiara Carrozza, ministro dell'istruzione, per essere stata con noi. Buona prego, giornata e buon lavoro naturalmente. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo in Francia, parliamo di Dieudonné Mbalambala. Se in questi giorni non l'avete già sentito nominare, è quest'uomo qua. Les États-Unis de l'Amérique se battì sur le plus gros génocide de l'histoire. Attore comico francese, dichiaratamente e violentemente antisemita, inventore di questo gesto che sta facendo tanto discutere, chiamato la Quenelle, che è una specie di gesto nazista rovesciato, un gesto fatto anche da un giocatore di calcio, Anelka. Battute che possiamo definire presunte battute, come ho urinato sul muro del pianto e altre ancora più pesanti che associano giornalisti di origine ebraica e camere a gas. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che i teatri, anche come dire, per volontà del governo e del presidente Hollande, stanno chiudendo i palcoscenici a Dieudonné. Saluto Vauro Senesi, che insomma è lo conoscete tutti, autore satirico, vignettista, mille altre cose, anche autore di libri tra le altre cose, lo trovate a Servizio Pubblico. Vauro, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Da censurare Dieudonné, secondo lei? Ma io ho sentito soltanto i brani che avete appena mandato in onda o le frasi che lei ha riportato di questo comico francese che non conosco, quindi non posso entrare nel merito di questo spettacolo e non posso entrare nel merito, quindi non riesco nemmeno a capire se è satira, se il tono, diciamo, delle dichiarazioni di Dieudonné è quello che ho sentito, non c'entra assolutamente nulla con la satira, è semplicemente una becera propaganda. Io non sono certamente un cultore della censura, non credo nemmeno che la censura serva ad arginare un fenomeno terribile e purtroppo in ricrescita come quello dell'antisemitismo. Io credo molto di più nel valore della cultura, dell'informazione, dello studio, della storia, della non rimozione. Detto questo, se si tratta di quella roba lì che ho sentito, beh, insomma, mi sembra addirittura superfluo l'intervento di Hollande. Credo che gli stessi direttori dei vari teatri non avrebbero dovuto dargli accesso al palcoscenico. Quindi c'è, secondo lei, un limite che bisogna porsi a questo punto di vista e che deve essere posto? No, non è questione di limite, ripeto. La satira io ritengo che non debba avere alcun limite. La propaganda è altra cosa. Mi viene in mente, per contrappasso, le famose vignette anti-islamiche, quelle che un ministro della Repubblica Italiana addirittura si fece stampare su una maglietta mostrandole in televisione e dando così sfoggio di grande liberalismo. Ecco, anche in quel caso io presi una posizione che mi fu poi attribuita una volontà censoria contro la satira, ma figuriamoci. Anche in quel caso non si trattava assolutamente di satira, si trattava di propaganda bellica, è un'altra storia, non è che qualsiasi battuta sia di per sé satira come qualsiasi disegno sia di per sé satira. E chi non si ricorda i disegni della propaganda fascista, della propaganda nazista riguardo agli ebrei o anche allo stesso nemico americano, il negrone con le labbra che stuprava bambine? Ecco, non credo che nessuno abbia mai pensato che quella roba lì fosse satira, no? Se questo comico, che ripeto non conosco, per cui questo giudizio lo do in base a quello che voi avete riferito, e questa roba non è un comico, è una, io direi, una merda, molto semplicemente. Ultima domanda, non si rischia di farne un martire così, Senesi? No, io ecco, è un'altra cosa, che se si rischia di farne un martire e questo signore presuppone di essere un comico, è finito come comico. Perché se c'è una cosa che non va d'accordo con la satira, che non va d'accordo con il gioco, con l'ironia anche feroce, anche cattiva della satira, è proprio la veste del martire. Io nel mio piccolo ho cercato, nonostante sia stato soggetto a svariati tentativi di censura e anche a feroci attacchi, ricordo quando feci le famose vignette sul terremoto dell'Aquila e l'allargamento dei cimiteri, purtroppo, e sottolineo purtroppo, i fatti di cronaca di questi giorni hanno dimostrato chi erano i veri sciacalli e chi sono i veri sciacalli di quella tragedia. Beh, ma non mi sono sentito un martire. Chi fa satira è convinto di quello che dice, convinto anzitutto del proprio gioco, di dire cose anche feroci, ma con un aggancio, addirittura viscerale alla realtà, quindi non teme la censura. Quando la censura arriva nelle sue varie forme, la combatte, tutto lì, insomma. Per cui che questo comico possa diventare, se questo pseudocomico, se è quello che mi state descrivendo, un martire, pazienza, sarà ancora più chiaro che non è un comico. Grazie a Vauro Senesi, vedo anche dai vostri sms che il dibattito è aperto, magari ci torneremo nei prossimi giorni. Grazie Vauro, buona giornata e buon grazie lavoro. Grazie a voi e buon lavoro. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Sulla scuola, gli insegnanti non dovranno restituire i 150 euro al mese di scatti di anzianità bloccati, lo ha deciso il governo. Il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza dice ai nostri microfoni che verranno identificati i responsabili di quello che è successo. I dati sul lavoro in primo piano, oggi diffusi dall'Istat, la disoccupazione in novembre al 12,7% contro il 12,1% della media europea. Oggi la Grecia prende il timone per il semestre di presidenza dell'UE. Triplice omicidio a Caselle Torinese, è stato arrestato il colpevole che ha confessato, si tratta del compagno della ex donna di servizio. Lo scopo era una rapina, spiegano gli inquirenti. Ed è il momento adesso della borsa. Borse in diretta. È una giornata, direi, contrastata in Europa, dove Milano va bene col FTSE MIB che guadagna lo 0,26%, il FTSE Share lo 0,18%, è negativa Parigi che cede lo 0,10%, Francoforte lo 0,13%, Londra lo 0,38%. Saluto Eleonora Micheli di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Buongiorno Eleonora. Buongiorno a tutti. Allora, come mai questo andamento differenziato che in realtà abbiamo visto già ieri tra Milano e il resto d'Europa? Sì, peraltro le borse europee erano partite proprio come ieri, cioè Madrid e Milano che guidavano la volata, mentre le altre borse europee abbastanza deboli. Poi a metà mattina in verità anche Milano e Madrid hanno iniziato a perdere punti, adesso Madrid oscilla sulla parità, Milano, come hai detto tu, sale di oltre lo 0,2%. Ovviamente a metà mattina sono stati diffusi dati sulla disoccupazione europea che è rimasta stabile al 12,1%, ma hanno preoccupato soprattutto i dati sulla disoccupazione italiana che a novembre è salita al 12,7%, ovviamente livello record, e quindi questo ha provocato ovviamente uno scossone. E poi d'altra parte Milano ha ripreso a correre festeggiando ancora l'andamento dello spread che rimane sotto i 200 punti e favorisce soprattutto gli acquisti sui titoli bancari. E infatti Intesa San Paolo guadagna il 2,17%, la Popolare Emilia Romagna l'1,83%, Monte dei Paschi l'1,78%, Unicredit 1,72%, Ubibanca 1,67%, Banco Popolare 1,5%. Molto bene oggi World Duty Free, il 3% è il titolo migliore sul FTSE MIB. Sì, in questi giorni in verità è andato un po', ha registrato un andamento abbastanza volatile, visto che in alcune sedute aveva frenato, oggi evidentemente ha ripreso a correre. Altri titoli in evidenza? Altri titoli in evidenza, come hai detto tu, ci sono le banche, ma una banca va male, si tratta della Popolare di Milano, perde oltre l'1%, c'è molta incertezza sui manager che saranno chiamati da Piero Giarda a guidare l'istituto. Secondo indiscrezioni oggi Piero Giarda potrebbe incontrare anche Fabrizio Viola, che è attualmente amministratore delegato di Banca MPS, ma che potrebbe lasciare l'istituto senese, che nel frattempo sale dell'1,9%, per prendere appunto il comando della BPM. Tutto da vedere, di fatto BPM dopo la volata di ieri oggi appunto riprende fiato e perde l'1%. Poi c'è Fiat che perde oltre l'1%, Moody's ha avvertito che potrebbe rivedere al ribasso il rating a seguito dell'acquisizione di Chrysler, e ovviamente oggi i titoli del gruppo ne pagano le conseguenze. Infine corre Mediaset più 1,4%, in questo caso a favorire gli acquisti sui titoli del Bisciò. È un report positivo di Berenberg. Negative anche Salvatore Ferragamo, quasi 4 punti percentuali di calo, 3 punti per Pirelli di calo e 3 punti per Unipolsai, 2 punti percentuali di calo per Azimut. Grazie ad Eleonora Micheli di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, se ne parlava proprio poco fa con Vauro Senesi, in realtà si stava affrontando un altro tema, si stava affrontando la vicenda di Dieudonné, appunto il comico francese dichiaratamente antisemita contro il quale si sta realizzando un processo per così dire di censura da parte dei teatri, i teatri stanno evitando di ospitarlo. Si parlava, aveva accennato Vauro Senesi, alle vicende dell'Aquila. Ebbene, gli appalti del post-sisma per la messa in sicurezza, ci sono notizie di oggi, gestiti anche grazie a tangenti. L'indagine della squadra mobile dell'Aquila ha portato ai domiciliari 4 persone, molte perquisizioni, tra gli indagati c'è il vice sindaco che si è dimesso. Valeria De Rosa ha intervistato il sindaco Massimo Cialente. Abbiamo ricostruito, adesso abbiamo sentito la conferenza stampa della questura che dice che non riguarda il comune in quanto tale, alcune individualità, va bene, questo è un dato, e poi se il vice sindaco si dimette chiaramente viene sospeso da dirigente come è previsto nei nostri regolamenti, si aprirà un'indagine interna su quel dirigente, mentre per quanto riguarda l'ex assessore era un uomo, un tecnico puro, non è un politico, ma era stato nominato assessore in quanto direttore del Consorzio dei Beni Culturali, mentre l'altro, quel Tancredi, era un consigliere di opposizione. Sindaco, immagino che per lei sia stato davvero un fulmine a ciel sereno. Ma sto come se mi fosse passato sopra un tiro. Questa, diciamo, ricostruzione, questa messa in sicurezza è diventata davvero lunghissima, sembra una storia infinita, questa è una tegola davvero pesante. Ma sa, questo comunque sia poi gli effetti di questa cosa, no? Quello che sarà nelle risultanze, è l'immagine negativa che viene sulla città in una fase in cui è chiamata ad uno sforzo abnorme ed è in conflitto con il governo perché non si trovano i soldi, quindi è un danno d'immagine gravissimo, gravissimo. Così Massimo Cialente, sindaco dell'Aquila, da un'inchiesta ad un'altra. C'è un'inchiesta partita con l'arresto lo scorso novembre di Paolo Oliviero, faccendiere, commercialista, che qualcuno definisce sui quotidiani commercialista dei potenti. E stanno emergendo una serie di dossier dagli archivi di quest'uomo. Ci colleghiamo con la nostra Raffaella Calandra, che ci dà qualche dettaglio in più su quello che sta emergendo in queste ore. Raffaella. Sì, buongiorno. È un'altra storia, come dicevi, di archivi segreti, di dossier riservati, di informazioni illecite, un'altra storia di spie e di spiati che, come le precedenti, che chi fa cronaca giudiziaria ricorderà, non si può immaginare dove possa condurre, e per questo sta agitando non poco nomi noti e cricche varie, con l'aggiunta stavolta, al contrario delle storie analoghe del passato, come il caso Telecom o quello dell'archivio di Pio Pompa, della presenza di un ordine religioso, perché dall'inchiesta sui padri Camilliani che sono stati trovati i dossier sequestrati al commercialista Paolo Oliviero su politici 007, ufficiali della Guardia di Finanza come volti dello spettacolo, ad esempio Sabrina Began, la perugina di Berlusconi a processo a Bari già per le vicende dell'escort di Tarantini, o come i dossier sulle verifiche fiscali della Finanza da indirizzare o da evitare, o quelli che sembrano preludere a intercettazioni illegali. Un'attività dunque di ricatto e di spionaggio a livello molto alto, dove politici, banchieri, ispettori, Equitalia e Subret sembrano accomunate in un unico giro di rapporti romani e interessi custoditi sotto forma di carte anche nella cassaforte del superiore dei Camilliani, padre Renato Salvatore. Per lui, per il commercialista Oliviero e per altre quattro persone, la Procura di Roma si prepara a chiedere il giudizio immediato per la vicenda iniziale che ricordavi, quella del sequestro di due sacerdoti per impedirne la partecipazione alle lezione del superiore, ma è da questo secondo filone che potrebbero arrivare ancora novità sorprendenti. E per ora è tutto. Grazie alla nostra Raffaella Calandra, ci staremo dietro a questa vicenda. Intanto passiamo a parlare di Expo con la terza puntata del nostro viaggio. Nel cammino verso Expo 2015 un tema chiave è la partecipazione degli altri paesi, che in un mondo globalizzato ma con forti spinte localistiche per la crisi è il vero segnale di salute di una esposizione. Sul sito dell'Expo, oltre al numero dei giorni che mancano all'apertura, 478, campeggia il numero 141, che è quello dei paesi aderenti, un numero destinato a crescere insieme a quello dei padiglioni 60, già maggiore di Shanghai 2010. Cifre imponenti rinforzate dall'adesione dell'ONU, del CERN di Ginevra e dell'Unione Europea. Sentiamo il presidente Barroso. Questo evento sarà anche l'occasione per l'Unione Europea, che parteciperà con il motto "Coltiviamo insieme il futuro dell'Europa per un mondo migliore", per sviluppare un dialogo con i cittadini sull'Europa, le sue politiche, il suo avvenire. E poi tanta Africa in prima fila nel discorso dell'alimentazione e tanta Asia. I paesi del Golfo, come sempre, non badano a spese. Gli Emirati Arabi si affidano all'architetto star Norman Foster. La Svizzera, primo paese a dire sì, mette sul piatto 20 milioni di investimenti e un padiglione all'insegna della sostenibilità con 5 torri riempite di prodotti alimentari che calano a mano che vengono consumati dal pubblico. Un modo plastico per dire che le risorse di questo mondo non sono infinite. Come ammonisce la mascotte ufficiale disegnata da Walt Disney, con 11 alimenti provenienti da tutto il mondo, il cui stile ricorda le teste dei quadri di Archimboldo. Una mascotte festosa, ma che non fa sconti ai nostri lussi. Dario Ceccarelli, Radio 24, il sole 24 ore. Ci sono novità sul caso di Michael Schumacher, sentiamo. Michael Schumacher non avrebbe commesso alcuna imprudenza prima dell'incidente sulle piste di sci di Méribel, è quanto rivelano le immagini della telecamera che aveva sul casco. Monsieur Schumacher descend cette piste jusqu'à une intersection. Secondo il procuratore della Repubblica di Albertville, Patrick Quincy, la velocità di Schumi al momento dell'incidente non era eccessiva, anche se non ne ha dato una stima precisa. Nessuna conferma invece sul fatto che il pilota tedesco stesse soccorrendo una bambina e nemmeno sull'esistenza di un secondo filmato ripreso da un altro sciatore, del quale aveva scritto il settimanale tedesco Der Spiegel. La procura poi ha ricordato una cinquantina di incidenti, anche gravi, in quel comprensorio sciistico. Nel 2009, ad esempio, la Corte d'Appello di Chambéry condannò l'impianto di Méribel per non aver segnalato alcuni massi sulla pista di Maudit, una delle due su cui sciava anche l'ex ferrarista. Una sciatrice 24enne venne indennizzata con 86.000 euro. Ma ci sono norme francesi che fissano gli obblighi in materia segnaletica e in questo caso non hanno rivelato mancanze, sono state rispettate, ha detto Quincy. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Sulla scuola è arrivata la pezza del governo, gli insegnanti non dovranno restituire 150 euro al mese di scatti di anzianità bloccati. Saccomanni dice è stato un problema di comunicazione. Disoccupazione in novembre al 12,7% contro il 12,1% della media europea. Triplice omicidio a Caselle Torinese, arrestato il colpevole che ha confessato si tratta del compagno della ex donna di servizio. È il momento di Mario Platero e di America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. After a cold Wednesday, temperatures begin to climb up. As a matter of fact, Wednesday will be slightly warmer than it was on Tuesday, and by the end of the week we may hit 32 or higher. Il freddo continua. Beh, ieri devo dire è stata una giornata davvero diciamo interessante. Perché? Perché faceva freddissimo, come vi avevo raccontato, perché c'era questo wind factor, c'era il chill factor, e quindi se siamo a, diciamo, meno 10, in realtà l'effetto è meno 20. Allora, cosa significa passeggiare per strada in una giornata in cui, tra l'altro, questo vento gelido polare che veniva dal nord ha spazzato via tutte le nuvole, basta umidità, nulla, c'era un clima asciutto, un sole forte e questo freddo intenso. Ecco, beh, un freddo molto sano, non dimentichiamo che New York è una città di mare. Certo, non si può stare molto a lungo fuori se non si è super coperti, insomma, attrezzati come per andare in montagna. Oggi la situazione è migliorata, siamo a meno 5 circa, col fattore vento siamo a meno 7, piano piano nel corso della giornata dovrebbe aumentare la temperatura e domani dovremmo tornare su temperature più normali. Ecco, anche la situazione, soprattutto qui nell'East Coast, dei treni, degli aerei, sì, un po' di ritardi, ma nulla di drammatico. Dunque, questa ondata di freddo, questo vortice polare, stiamo per superarlo, direi, possiamo dire che lo abbiamo superato. È stata un'esperienza anche quella, ma veniamo alle notizie importanti soprattutto sul fronte economico, perché ce n'è una che in qualche modo rappresenta una continuità con un tema di fondo che abbiamo affrontato qui ad America 24 negli ultimi mesi, e cioè il modello americano da una parte, il modello tedesco dall'altra. Qual è la via per la crescita più opportuna? Noi ad America 24 abbiamo sempre detto che gli stimoli di cui ha potuto godere l'economia americana sono stati molto utili, hanno funzionato, si è venuto a creare un modello virtuoso, abbiamo visto dei dati economici positivi sul fronte occupazione, diminuzione del disavanzo federale, sul fronte della crescita, crescita che addirittura ha toccato il 4,1% nel terzo trimestre del 2013. Si è aggiunto ieri un altro dato importante, un dato sul disavanzo commerciale, è migliorato anche grazie alla svolta sul fronte energetico di cui hanno potuto godere gli Stati Uniti d'America, lo shale gas, nuovi giacimenti di petrolio, insomma l'America potrebbe diventare esportatore netto di petrolio. E in questo contesto ottimistico, torneremo poi sulla questione energetica e sul disavanzo commerciale, perché non è una cosa da poco che ci sia stato un dato così positivo sul fronte commerciale. Vi dicevo, l'America approfitta di questi dati per rilanciare il solito messaggio all'Europa: Europa, cresci, cerca di fare qualche cosa per tirarti fuori dalle secche. Sentiamo Jack Lew, il segretario al tesoro americano, in una dichiarazione che non menziona la Germania, ma che è chiaramente diretta a Berlino. It's clear that some countries have more capacity to stimulate growth and demand than others do. And you know, it's been our view that you look at the global economy. There needs to be some more growth in Europe. There needs to be some more growth. Cosa dice Lew? So che le sfide con cui i vari membri dell'Unione Europea si confrontano sono diverse, ma è chiaro che alcuni paesi hanno la capacità di stimolare l'economia e la domanda meglio di altri. Guardando all'economia globale, c'è bisogno di maggiore crescita in Europa, così come in Asia, e anche noi stiamo facendo del nostro meglio per stimolare la crescita negli Stati Uniti. Jack Lew in questo momento è in Germania, ieri era in Francia, ha portato questo messaggio molto chiaro a Berlino. La nostra tesi è che l'America in effetti ha cercato di stimolare la propria economia, ci è riuscita e in questo momento sta godendo dei benefici dal punto di vista dei ritorni macroeconomici. L'Europa deve fare la stessa cosa, la Germania deve allentare questa sua ossessione per il rigore, perché di rigurgiti inflazionistici non ne abbiamo visti e dunque è meglio crescere piuttosto che stringere e ridurre le economie allo stremo. The trade balance came in at $34 billion as a deficit. It was expected to be around $40 billion. To discuss this more, we have Sital. Vi dicevo, saremo tornati a parlare di disavanzo commerciale. Il deficit commerciale negli Stati Uniti è calato in novembre per la seconda volta dall'inizio dell'estate. Siamo al minimo dall'ottobre 2009. C'è stato un buon andamento delle esportazioni, dunque il dollaro debole in qualche modo aiuta. È sceso il disavanzo a 34,25 miliardi di dollari dai 39 miliardi di dollari del mese precedente. Ecco, attenzione, un disavanzo comunque di 34 miliardi di dollari, significa che l'America continua a fare da traino per gli altri paesi e dunque questa riflessione si aggiunge a quella che facevamo prima sulla Germania, ma insomma non è giusto che anche la Germania, che invece ha un surplus che addirittura sfiora il 6-7% del PIL, cominci a fare un pochettino la sua parte. Sul fronte del petrolio, vedete, le importazioni di petrolio derivati sono calate a novembre dell'11% grazie alle scoperte di shale gas e al nuovo rinascimento energetico americano. Dunque l'America oggi sta già godendo in modo diretto dello sfruttamento di giacimenti che da noi in Europa, attenzione, ci sono, però ci sono una serie di regole, di preoccupazioni che non ci consentono di sfruttarli. Questo ci porta a un'ultima considerazione, e che cioè molto importante, attenzione, cioè che gli Stati Uniti potrebbero eliminare nel corso di quest'anno le restrizioni alle esportazioni energetiche. Fino adesso non è consentito ai produttori americani di esportare petrolio, energia locale. Forse ci arriveremo. Se succederà, sarà una notizia buona per noi, perché contribuirà a una diminuzione generalizzata dei costi energetici. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. In attesa di sapere chi sono le canzoni vincenti per il 2013, ve ne segnalo una che potrebbe vincere nel 2014. Grande attesa per il quarto album di Saint Vincent. Uscirà il 25 febbraio, un'anticipazione di Saint Vincent, Digital Witness. York è tutto, Simone, ti restituisco la linea, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Grazie anche a te Mario Platero, grazie anche a Laura Fagin in redazione in assistenza, Filippo Aureggi in regia, come sempre tutta la redazione di Radio 24. Potete, se volete, seguirci su Twitter, seguirmi su Twitter, mi trovate là, Simone Spezia. C'è la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Ci risentiamo tra un attimo col giornale radio. Effetto Giorno naturalmente torna domani alle 13.